Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia inquietante, anzi inquietante è un eufemismo. Oggi parliamo di colui che si è definito la reincarnazione allo stesso tempo di Gesù e di Satana. Forse se dovessimo dare la definizione del male assoluto dovremmo pensare a lui. Eppure è una persona che ha anche ottenuto attraverso la sua incarnazione del male grandissima popolarità, come tutti i grandi criminali americani, perché di un americano stiamo per parlare. Ha ricevuto lettere, foto di donne che volevano sposarle, insomma è diventato una star con tanto di merchandising con la sua faccia. Stiamo per raccontarvi la storia di Charles Manson ed è proprio un ascoltatore che la vuole sentire. Mi chiamo Daniele, ho 38 anni, vivo a Milano e faccio l'agente di commercio. Vi ho chiesto di parlare di Manson perché è un personaggio che mi ha sempre incuriosito da quando ho letto degli omicidi commessi dalla sua setta. Vorrei capire se è un genio del male o solamente un pazzo criminale che deve la sua fama all'attenzione della stampa. Well God, I guess you're my best friend because I invented you. E quindi Daniele in un certo senso ha già posto l'accento sul punto più importante, una star del crimine. Proviamo a scoprirlo. Allora, nasce il 12 novembre 1934 con il nome di Charles Miles Maddox al General Hospital di Cincinnati, nello stato americano dell'Ohio. La madre ha 16 anni, si chiama Kathleen ed è una ragazza madre, una prostituta. Quindi partiamo alla grande. Il padre biologico è un certo colonnello Walker Scott. La madre intenta contro di lui una causa per il riconoscimento, la perde, o comunque non se ne sa nulla di questa causa, tant'è che Charles non conoscerà mai suo padre. Secondo alcuni, questo colonnello Scott sarebbe stato un afroamericano. È un particolare che Manson ha sempre negato, anche perché lui contro i neri ha sempre mostrato una certa avversione, come sentirete. Tra l'altro bisogna dire che su molti dettagli della vita di Charles Manson il dubbio è legittimo, perché le versioni sono tante e lo stesso Charles ha, come dire, mischiato molte volte le carte in tavola. Queste comunque sono le parole del nostro protagonista in una famosa intervista con la giornalista americana Diane Sawyer. Manson racconta della madre, ma lo fa a modo suo, parlando in prima persona. I am a street child. Sono un bambino della strada. Sono una ragazzina scappata di casa. Ho 15 anni e mi chiamo Kathleen Maddox dal Kentucky. Non avevo un marito. Il nome del mio uomo era Scott, ma lui si è sposato con un'altra incontrata per strada. E io me ne sono andata a Cincinnati con un tizio di nome Charlie Manson. Insomma, già il fatto che questo parli in prima persona di sua madre, come se fosse lui, insomma, la dice lunga sulle turbative già di partenza. L'infanzia difatti non è certo semplice con sua madre. Prima lei convive con un certo William Manson, che lascerà al piccolo Charlie il cognome e niente più. È una forte bevitrice, una prostituta, ha un fratello con il quale ama compiere reati. Nel 39 i due fratelli, diciamo mamma e zio, vengono condannati a 5 anni di prigione per la rapina a una stazione di servizio. Mia mamma è stata in prigione per 5 anni per rapina a mano armata. Suo fratello doveva arrangiarsi per cavare fuori qualcosa da mangiare. Lei andò in prigione e io andavo a trovarla nella stanza delle visite. E qui si va dalla parte opposta, perché mentre la madre è in carcere, Manson viene accudito da uno zio e da una zia in West Virginia. Entrambi sono molto religiosi, lo portano in chiesa. Lui non piace andare in chiesa, se non per una cosa, per cantare. Inizia a farlo in chiesa e sarà una costante della sua vita. L'influenza maggiore, però, Manson la subisce da un altro zio, una specie di montanaro, un uomo che gli insegna la ribellione. Le montagne del Kentucky, mio zio diceva, ci siamo arresi, siamo ancora macerie e lo saremo fino alla fine. E ai miei tempi non accettavo nessuna scuola Yankee. Un giorno mi disse, non andare in quella scuola, eh? Così, a 9 anni, diedi fuoco alla scuola e finì il riformatorio. Necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies be reduced to. La madre esce di prigione nel 42 e ritrova il figlio. Vivono assieme, passando da un motel all'altro, mentre lei continua a fare la prostituta. Nonostante questo, Manson ricorda quel periodo come l'unica parentesi di felicità della sua vita. Nel 47 la madre cerca di piazzare il figlio in una casa famiglia, ma non ci riesce. Allora accetta che il tribunale lo inserisca alla Gibault School for Boys, che è un istituto pubblico in Indiana. Charlie ci rimane 10 mesi, scappa, torna dalla madre che però lo rifiuta, quindi andiamo benissimo nel rapporto madre-figlio. Per lui questo è un punto di svolta, perché da quel momento sarà un ragazzo ben diverso. L'unica cosa che mia madre mi ha insegnato è che tutto quello che diceva erano bugie. Per questo ho imparato a non credere mai a nessuno, su qualsiasi cosa. Insomma, essere mandato via dalla madre a 10 anni certo non gli migliora il carattere. Comincia a compiere reati, rapina negozi, ruba biciclette, viene catturato una prima volta, finisce in un istituto a Indianapolis, scappa dopo un giorno, viene ripreso, riportato dentro, 4 giorni e scappa ancora con un compagno di fuga, compie 2 rapine a mano armata, ma i due vengono catturati ancora una volta. E qui finisce all'Indiana Boys School, dove subisce una violenza sessuale, brutalità di vario genere, tutto questo quando non ha ancora 13 anni. Cerca di scappare altre volte, rimane rinchiuso fino al 1951. Quando esce, ruba una macchina con 2 complici, viene preso mentre la sta portando in California. Intanto ha rapinato alcuni distributori lungo la strada. Portare auto rubate da uno stato all'altro è un reato federale che gli costa il primo vero riformatorio a Washington. Lo fanno studiare per 4 anni, ma a dispetto di questo e anche di un quoziente intellettivo da 109 punti, che non è poco, lui resta un semi-analfabeta, aggressivo e antisociale. Su consiglio dello psichiatra viene trasferito in un carcere di massima sicurezza e nel 52, quando ha solo 18 anni, violenta un compagno di reclusione tenendogli un coltello puntato alla gola. Da quel momento si conquista la fama di persona pericolosa e inizia un pellegrinaggio per i riformatori federali e lo mandano in quelli sempre più duri. Lui è un violento, però non è uno stupido e di colpo, a un mese dal suo ultimo trasferimento, diventa un detenuto modello. Riesce a convincere che è cambiato, viene scarcerato in libertà condizionata. Vedi, non mi ero mai reso conto di quanto la gente di dentro fosse così diversa dalla gente di fuori. Se menti, la gente di dentro ti picchierà, abuseranno di te. Non menti al secondino e lui non mente a te. C'è una certa dose di verità in carcere. E crescendo in carcere, ho sempre seguito la linea di quella verità. La verità è che la libertà e la vita fuori sembrano solo delle parentesi in quella che è l'esistenza normale di Charles Manson e il suo habitat naturale, il carcere. Libero sulla parola, torna nella città della madre, sposa un'infermiera, Rosalie Jean Willis, la mette incinta e continua a compiere reati. Soprattutto ama trasportare auto rubate attraverso il confine statale e così nel 56 torna in carcere. Lì la moglie lo va a trovare insieme alla madre, finché non finiscono queste visite. La madre gli fa sapere che la moglie e il figlio ormai vivono con un altro uomo. Due settimane dopo, Manson scappa dalla prigione, ruba una macchina, viene ripreso e gli viene accollata una condanna a 5 anni. Torniamo a parlare di Charles Manson tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando un personaggio che è una vera e propria icona pop americana. Ci sono gadget con la sua faccia, cappellini, magliette. Insomma, teniamo conto che le icone pop americane vanno da Gesù Cristo a Che Guevara. Qua invece stiamo parlando di un personaggio veramente un re del male. E è una storia che è stata scelta per noi da Daniele, che è un ascoltatore di Milano, che è un agente di commercio. Stiamo parlando di Charles Manson. Lo abbiamo lasciato piccolo criminale specializzato in furti d'auto, però già noto per la sua violenza, per il suo profilo di sociopatico. Ormai sono più i periodi che passa dietro alle sbarre rispetto a quelli che passa in libertà per strada. Siamo alla fine degli anni 50 e lui è detenuto in California, stavolta a Terminal Island. Come spesso capita, la galera per lui è una vera e propria scuola, perché conosce malviventi di tutti i tipi, da alcuni impara quella che sarà poi la sua attività, lo sfruttamento della prostituzione, ed è quello a cui si dedica una volta fuori. Nel 60 viene incriminato per trasporto di donne da una parte del confine all'altro, è passato dalle auto alle ragazze, ma ha anche falsificato documenti, rubato macchine, oltre ad avere violato la libertà vigilata. Questa volta la condanna è a 10 anni, pena più pesante, carcere più duro, McNeil Island, nello stato di Washington. In tutta la mia vita ho rapinato qualche negozio, aperto qualche macchinetta distributrice, rubato qualche macchina, steso qualche pollastra. Sono un perdente. Per tutta la vita sono stato con prostitute, vagabondi alcolizzati. Questa strada è il mio mondo. Altro carcere, altra scuola. Stavolta Manson non scopre nuovi modi di delinquere, sviluppa altri interessi, quelli più inquietanti, la chiromanzia, la magia nera, l'esoterismo e altre cose del genere, fino all'ipnotismo. Dall'altra prende lezioni di chitarra da un maestro particolare, il leader di una gang nota all'epoca, la Barker Carpis. Alvin Creepy Carpis gli insegna i rudimenti della chitarra. Non solo, un altro detenuto gli procura un contatto alla Universal a Hollywood. In quel periodo Manson sviluppa l'idea di diventare un cantautore e il periodo è propizio, però non ci sarà nessuna sliding door per lui, come vedremo. E viene rilasciato nella primavera del 67, ha già 32 anni e ha passato più della metà della sua vita in prigione o in istituti correzionali. Forse è per questo che alla vigilia della sua scarcerazione chiede di poter rimanere in galera, perché quella, come lui stesso la definisce, è la sua vera casa. Io non credo nella società e sono un incompetente. Sono sicuramente un incompetente. Il bello di esserlo è che non devi fare niente per dimostrarlo. Se sei uno competente, devi fare molto invece. Sembrano le interviste di Tom Waits o di Charles Bukowski o di un Kerouac o un Timothy Leary, e invece stiamo parlando di un criminale che fece parlare di sé tutto il mondo. Tra l'altro, quando lui esce di prigione negli Stati Uniti è in atto un fenomeno travolgente che segnerà non solo l'America ma tutto il mondo per gli anni a seguire. Sto parlando del movimento hippie, quello dell'amore libero, degli ideali pacifisti, ma anche dell'uso massiccio delle droghe. Lui è fuori proprio nella primavera del 67. Quello stesso anno, un paio di mesi dopo, avrà luogo a San Francisco la Summer of Love, l'estate dell'amore. 100.000 persone che convergono nell'area di San Francisco, e Manson, che in carcere ha imparato a suonare la chitarra, a scrivere musica, fa la stessa cosa. In quei giorni San Francisco non è più soltanto il regno dei figli dei fiori, perché sta diventando una città pericolosa. Ecco il ricordo di Roger Smith, ufficiale responsabile della libertà vigilata di Manson. Mi potrei ricordare una canzone il cui testo diceva: se vieni a San Francisco faresti bene a portare un fiore nei tuoi capelli. Ma nel 1967, se venivi a San Francisco, dovevi portarti una calibro 45 nella cintura. Era cambiato tutto molto velocemente. I ragazzi venivano ancora da tutte le parti degli Stati Uniti con lo stesso livello di aspettative. Ma il benvenuto era ben diverso. C'era un tipo di teatro di piazza difficile da immaginare. E questo alla faccia di tutti quelli che da ragazzini pensavano a San Francisco come un luogo di pace, di amore e di musica. Lui intanto è proprio lì, a San Francisco, e scopre di avere un altro talento che è superiore anche a quello musicale, perché nonostante sia un ometto, insomma, di 1,50 m, non particolarmente avvenente, riesce a catturare l'attenzione e a conquistare le donne. Questa è Lynette Fromm, che è un'adepta di Manson, che nel 75 cercherà, tra l'altro, così insomma per adeguarsi al clima di famiglia, di uccidere il presidente americano Gerald Ford. Era facile parlargli e noi parlavamo su piani diversi. La sua mente mi affascinava. Sarà per la sua faccia, la barba, l'occhiata. Mi ricordo un po' Rasputin, del quale tra l'altro parleremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Bene, lui ha molto ascendente sulle donne e si concentra soprattutto su ragazze della classe media americana, figlie svogliate di famiglie benestanti che sono attirate dai nuovi valori o da presunti valori, tipo la rivoluzione culturale, il movimento hippie. La prima che conosce si chiama Mary Brunner, a 23 anni, laureata. Vanno a vivere assieme. In poco tempo Manson costruisce un vero e proprio harem e mette su una comune con altre 18 donne, dimostrando che alle donne piacciono soprattutto quegli uomini lì, si innamorano proprio di quelli. Però qui insomma abbiamo esagerato. Sta nascendo quella che rimarrà alle cronache come The Family, la famiglia. E gli ingredienti del rapporto con le ragazze sono un mix di elementi: fascino e capacità di manipolazione e droga, molta droga. In quel periodo vanno per la maggiore gli sballi lisergici, l'LSD, che apre la mente, allarga le percezioni, provoca allucinazioni, che fa perdere completamente il controllo, anche se lui il controllo non lo perde mai. Sentiamo cosa dice Patricia Krenwinkler. Sembra così sorprendente perché l'acido è una droga molto potente. Mi sentivo completamente fuori controllo, mentre lui sembrava del tutto padrone della situazione. In seguito dubitai che prendesse l'acido. Non penso lo prendesse. L'idea era quella di liberarsi da ogni condizionamento, morire in te stesso. La famiglia in breve tempo cresce di numero e intorno a Charles Manson si raccolgono una decina di persone. Nel gruppo Bontà Sua arrivano anche dei ragazzi, forse per dargli una mano, e spesso si tratta di persone con storie molto complicate, con problemi familiari, quelli che oggi chiameremo disadattati. Viaggiano, vivono a bordo di uno scuola bus tra gli Stati Uniti e il Messico. Per questa gente Manson diventa un leader, una guida spirituale e morale. Nei suoi discorsi allora comincia a definirsi come la reincarnazione di Gesù e di Satana allo stesso tempo. I suoi adepti naturalmente non solo gli credono, ma mostrano una devozione totale, pendono dalle sue labbra, aspettano le sue indicazioni. Al di là delle apparenze, non è una comune hippie come le altre. Nella famiglia di Manson c'è anche la violenza, l'odio razziale verso i neri. La teoria che Manson propina a tutti parla di un futuro scontro interrazziale in cui i bianchi avranno la peggio, ma i neri, che secondo Manson sono inferiori, non riusciranno a mantenere il potere. A quel punto, conclude Manson, i prescelti della famiglia prenderanno il comando. La Family ormai conta una cinquantina di membri e il gruppo torna a stabilirsi a San Francisco vivendo di piccoli crimini, soprattutto furti. Manson ha un figlio da un'adepta che partorisce con la sola assistenza delle sorelle. Tra l'altro mi viene in mente, chissà che fine avranno fatto i figli di Charles Manson se vanno in giro a dire chi è il loro padre. Non lo sapremo mai. Comunque, la droga è la vera protagonista delle giornate del gruppo, che si prepara a alzare il livello, a provare nuove esperienze che, per chi li incontrerà sulla propria strada, significheranno la morte. Ne parliamo tra poco al Falco e il Gabbiano. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Charles Manson, il male assoluto. In realtà ci stiamo anche domandando se quest'uomo sia stato veramente il male assoluto o sia stato solo un criminale da strapazzo assecondato da dei ragazzi viziati e disturbati, montato dai media. È una domanda che anche il nostro ascoltatore si è posto e infatti ci ha chiesto di raccontare questa storia. Il nostro ascoltatore Daniele, un agente di commercio milanese di 38 anni. Charles Manson, una vita in carcere, il mandante dei delitti di Cielo Drive, il massacro di Sharon Tate, insomma una famiglia che in qualche modo ha segnato emblematicamente la storia di quell'America. Per adesso li abbiamo lasciati nella zona di Los Angeles, hanno ottenuto di potersi stabilire in un ranch, un vecchio set cinematografico per film western, si chiama lo Span Ranch. Il vecchio proprietario li lascia vivere lì in cambio della manutenzione del posto, e anche perché pare Manson abbia così lo abbia invogliato alla cordialità, spingendo alcune adepte a fare sesso con lui. La famiglia passa il tempo al ranch suonando e cantando, facendo sesso di gruppo, usando droga a tonnellate, soprattutto hashish e LSD. Lui ha un surplus di energia e mette in campo tanti progetti, se possiamo chiamarli così. Fonda un gruppo ambientalista, ma soprattutto cerca di dare scopo a un sogno maturato in carcere, quello di sfondare nella musica. È un fanatico dei Beatles, soprattutto quelli del White Album, che secondo lui annuncia con le canzoni l'arrivo dell'Helter Skelter, dal titolo della canzone, cioè la guerra interrazziale che opporrà i bianchi ai neri, secondo la sua apocalittica visione del futuro. Un'occasione per fare conoscere la sua musica in effetti arriva. Due ragazze della famiglia entrano in contatto con Dennis Wilson, che è il batterista dei Beach Boys. Un pezzo della famiglia si installa a casa sua. Manson lo convince a pagare le sessioni di registrazione in uno studio di Los Angeles. Registra la sua musica, ma la cosa non ha un gran seguito. Manson non la prende bene. I Beach Boys, tra l'altro, arrangiano un suo brano, così lui sostiene, cambiano il titolo, cambiano i testi, stravolgono il pezzo che uscirà come Never Learn Not to Love. Qui Manson si arrabbia sul serio, perché sostiene che gli abbiano rubato la canzone, si spezza l'amicizia e Manson se la lega al dito. Guarda che sono venuti loro al mio ranch, ragazza. Non sono andato io, ma sono venuti loro da me. Mi rubi la musica tutti i giorni. Tu scrivi le mie canzoni. Tu giochi il mio gioco. E beh, ormai la follia sta per esplodere. Nel luglio del 69 il primo delitto. Charles Manson manda alcuni membri della famiglia da un conoscente, Gary Hinman, che guarda caso è un musicista, frequenta saltuariamente il gruppo e lui è convinto che abbia denaro e vuole che diventi un membro della sua comune, cedendo tutti i suoi beni. Inman fiuta l'inganno, non collabora, allora viene sequestrato e torturato per due giorni. Manson gli taglia un pezzo d'orecchio con una spada. Alla fine un membro della banda lo uccide a coltellate e con il suo sangue qualcuno scrive sulle pareti della casa Politically Pig, insieme a un simbolo del gruppo nero delle Black Panther. È un piano, il piano di Manson è quello di fare ricadere la colpa di quel delitto e dei successivi sulla comunità nera di Los Angeles, scatenare l'Helter Skelter. Do you? notte dell'8 agosto del 1969, 10 giorni dopo l'omicidio di Hinman, Manson affida a un adepto, Charles Tex Watson, il compito di recarsi in una villa su Cielo Drive, la zona dei ricchi. È una villa particolare, è il simbolo delle frustrazioni di Manson come musicista, perché l'ex proprietario si chiama Terry Melcher, figlio dell'attrice Doris Day, è un produttore musicale ed è uno che dopo un primo interesse verso la musica di Manson si è rifiutato di lasciare proseguire questo rapporto, insomma non ha voluto produrre Manson. Lui non abita più in quella villa, che adesso è di proprietà del regista Roman Polanski e della moglie, l'attrice Sharon Tate. Però non importa, un simbolo è un simbolo. Manson dice a Tex Watson di prendere con sé 3 donne del gruppo, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenkwinkler. Ero con i bambini nella roulotte, ero con qualcun altro. Charlie mi venne a cercare e mi disse: alzati e sali in macchina. Ed ero in macchina con Tex, Linda Kasabian e Susan Atkins. E ci disse: fate tutto quello che vi dice Tex. E andammo. È mezzanotte. I 4 si dirigono verso la villa armati di coltelli, di una pistola e di una corda lunga 13 metri. Non è mai stato accertato se Manson abbia aspettato in auto o al ranch. Comunque non entra. Il gruppo taglia i fili del telefono, scavalcano la recinzione che delimita il parco della villa e incrociano un amico del guardiano che si sta allontanando in auto. Stephen Parent. Watson gli spara 4 volte e lo ammazza. Poi entrano nella villa, Tex Watson per primo, lo seguono Susan Atkins e Patricia Krenkwinkler. Dopo gli spari, Tex tornò indietro e ci disse di seguirlo. Entrò, credo, da una finestra e ci aprì il portone principale. C'era un uomo con il quale stava lottando, penso fosse Jay Sebring. Lo teneva a terra e gli avvolgeva la corda al collo. Chiese a Susan di coprirgli le spalle. Voleva impiccarlo, ma non ci riusciva. Gli sparò. Tutti si spaventarono. A quel punto cercò di impiccare tutti. Abigail Folger riuscì a divincolarsi dalle corde. Scappò verso l'esterno. Io la rincorsi con un coltello attraverso la porta sul retro fino al giardino. La raggiunsi e iniziai ad accoltellarla. La spinsi a terra e continuai con le coltellate. Mentre lo facevo, ricordo che disse: sono già morta. I'm already dead. In quel massacro muoiono l'attore Wojciech Frykowski e la sua fidanzata Abigail Folger. Poi muore il parrucchiere Jay Sebring, che viene ammazzato mentre chiede pietà per Sharon Tate, la padrona di casa. Lei è incinta all'ottavo mese e viene strangolata con la stessa corda che è già stretta al collo di Sebring. Polanski e il marito è a Londra, è impegnato in un film. La Tate avrebbe dovuto partorire 2 settimane dopo. Sulle pareti della villa, con il sangue di lei, gli assassini scrivono pigs, porci. E naturalmente Helter Skelter. Roman Polanski, regista e marito di Sharon Tate, ha convocato i giornalisti oggi in un hotel di Hollywood e ha rilasciato una dichiarazione lunga e commovente. Ha parlato della tragedia che lo ha colpito, da quando l'8 agosto scorso sua moglie incinta e altri 4 uomini sono stati uccisi nella sua casa. Non ha risposto a nessuna domanda. Ha solo rilasciato una dichiarazione molto sentita. Sharon non usava droga, non toccava nemmeno alcol, non fumava sigarette. L'ultimo film che ha interpretato non è stata un'esperienza molto felice per lei, ma il più bel film che stava facendo era la sua gravidanza. Non ho mai visto una donna più preoccupata di lei. La casa adesso è aperta, c'è la polizia, c'è molto sangue dappertutto. All over the place. La follia omicida non si ferma. La notte dopo, 6 membri della famiglia si introducono nella villa di un imprenditore, Lino La Bianca, e anche di sua moglie, Rosemary. Questa volta c'è anche Manson, ma forse non partecipa all'omicidio. I coniugi vengono ammazzati nel sonno con decine e decine di colpi di forchettone. Sulle pareti della casa e sul frigorifero, le stesse scritte della strage di Cielo Drive. Death to pigs, morte ai porci. E di nuovo Helter Skelter. All'inizio la polizia stranamente non collega le due stragi. Gli investigatori pensano che il duplice omicidio sia opera di un copycat, cioè un emulatore. Poi c'è un avvocato italo-americano, si chiama Vincent Bugliosi, che indaga nella direzione giusta. Impiega dei mesi, trova le prove che incastrano Charles Manson e lo porta in tribunale. Alcuni membri della family tradiscono e raccontano tutto. Linda Kasabian, che nella strage ha fatto il palo fuori dalla villa, è la testimone chiave. Charles Manson non ammette nulla, anzi nega di avere plagiato i membri della famiglia e di averli indotti agli omicidi. I never broke nobody's will. Non ho mai infranto il volere di nessuno. Non ho mai detto a nessuno di fare niente oltre a ciò che volevano fare loro. Aspetta un attimo. Tu fai quello che ti sembra giusto per te, quello che pensi sia giusto. Io sto solo camminando con te, al tuo fianco. Quello che fai però lo decidi tu. Non ha nulla a che fare con me. Ci vuole un processo lunghissimo per arrivare alle condanne. È un processo che vede Manson cambiare look quasi a ogni udienza, come se fosse una rockstar. Si disegna simboli in fronte, oggi per esempio ha una svastica tatuata in mezzo agli occhi. È un processo affrontato dalle donne della famiglia con il sorriso sulle labbra, cantando canzoni. Prima della sentenza interviene anche il presidente di allora, Nixon, che non è uno morbido, si esprime per un verdetto di colpevolezza per Manson e che definisce una figura attraente per i media. Le condanne alla fine arrivano, pena di morte per tutti i membri della famiglia Manson. Nel 72 però la California abolisce la pena capitale, i condannati vengono trasferiti dal braccio della morte al carcere e la pena viene commutata nell'ergastolo. Charles Manson, il volto del male, è ancora vivo, rinchiuso in carcere. Ha 80 anni, presumibilmente morirà dietro alle sbarre. Di recente si è parlato di un matrimonio con una 27enne che da anni gli scriveva lettere adoranti. Sembra che tutto sia saltato perché la ragazza, con un ottimo senso degli affari, ambiva a ottenere il diritto a avere il corpo di Manson dopo morto per imbalsamarlo e esporlo a pagamento in una specie di museo. Un piano forse addirittura troppo folle perfino per lo stesso Manson, come ha scritto il New York Times. Ma chi è stato Charles Manson, quindi? Un genio del male o un criminale come tanti altri? Lasciamo la risposta a chi lo ha conosciuto bene, l'ufficiale per la libertà vigilata Roger Smith, che lo ha seguito per molti anni. He was not Jesus Christ or Satan. Lui non era certo Gesù Cristo o Satana. Era un sociopatico molto bizzarro, strambo ed energico, che aveva delle povere studentesse middle class, confuse, che avevano abbandonato gli studi e decisero di seguirlo. E giunse a una situazione nella quale lui aveva un potere enorme su queste persone e lui le tirò tutte dentro questo piano bislacco e odioso. E non ci fu nessuno lì a dire: Charlie, ragazze, è tutto una follia. This is crazy. Erano gli anni in cui Andy Warhol diceva che ognuno ha diritto a un quarto d'ora di celebrità, e la maniera perversa e terribile di Charles Manson di conquistarselo quel quarto d'ora in qualche modo è stata uno spartiacque nella storia di quell'America di fine anni 60, lisergica e in qualche modo stravolta rispetto a qualsiasi convenzione. Quindi anche un pazzo criminale come Manson prova a emergere, a dare il suo terribile colpo d'ala, un colpo d'ala che è finito nel sangue, nella follia, nel carcere a vita. È una storia difficile come tante altre che vogliamo raccontare, perché ciascuno di noi nella sua vita può andare molto in alto o molto in basso, oppure può andare in tutte e due le direzioni. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il microfono, fatelo, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it o visitate le nostre pagine su radio24.it. Ciao, a lunedì. Husband takes the train. He's big and he's fat, and he doesn't even have a brain. They're gonna kill your son. Don't you know they're gonna kill your son? Il falco e il gabbiano. un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.